traditor di me stesso, io mi insidiai la vita, io mi diedi alle pene, mendaci a danno mio. Scure racchiudete nel sen tra...